Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Buonasera, buonanotte, buon pomeriggio, ci sono tutti i saluti nella nuova sigla di Eclettica. Giulio Caperdoni in vostra compagnia con Eclettica tutti i giorni della settimana sulle frequenze di Rock FM fra le 19 e le 20. Tra l'altro questa settimana è una settimana tutta intera, non c'è scherzo, come invece nella scorsa che era la prima della nuova stagione quando avete trovato il giovedì, che era un festivo solo la musica di Eclettica senza la voce, come ha fatto notare anche chi ha messo un commento su MySpace. E colgo l'occasione per ricordare l'indirizzo myspace.com/eclettica, e questo è l'indirizzo del nostro spazio, come Giulio e radiorockfm.com il mio indirizzo personale a cui scrivere nel caso vogliate essere parte della lista nera. Choisy-le-Roi, sobborghi di Parigi. Domenica 28 aprile 1912. Il carro scricchiolava e gemeva, attraversando a lentezza esasperante i 60 metri del campo incolto. Dall'altra parte della strada, fra gli alberi, centinaia di fucili erano puntati sulla casa. Dopo l'ultima sparatoria, un silenzio assoluto pietrificava la scena. Gli uomini, sdraiati sul terrapieno e accovacciati dietro i tronchi, seguivano il movimento a ritroso del carro, che ormai era così vicino all'obiettivo da invadere la visuale dei mirini. Questo era l'incipit di In ogni caso, nessun rimorso, di Pino Cacucci. But the only power source capable of generating 1.21 gigawatts of electricity is a bolt of lightning. What did you say? A bolt of lightning. Unfortunately, you never know when or where it's ever going to strike. We do now. This is it. This is the answer. It says here that a bolt of lightning is going to strike the clock tower precisely 10:04 p.m. next Saturday night. If we could somehow harness this lightning, channel it into the flux capacitor, it just might work. Next Saturday night, we're sending you back to the future. L'occasione è data dalla pubblicazione dell'ennesimo box set dedicato a Bob Dylan, in questo caso si chiama Dylan, o più semplicemente potremmo dire il box set del 2007, tanto ce n'è uno per anno. Però in questo box set è contenuta una versione molto particolare che a me è piaciuta, una Mark Ronson reversion di Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine. E sapete che quando mi piace un brano, poi lo condivido con voi, e questo è appena successo. Brano che è stato preceduto da un pezzo italiano, come sarà anche seguito da un pezzo italiano. Infatti Eclettica quest'oggi si è aperta con le Fauve, che ci hanno fatto ascoltare da quello che finalmente è il loro album di lunga durata, Fava Go Go Dancer, album uscito per la Orthovox. Per ora lasciare spazio ad una doppia band italiana, perché si sono messi assieme i Walkie Talkie e Eteria hanno formato i Walkie Talkie Eteria Post Bong Band e noi ci ascoltiamo Sclay Dance. Guardava la parete, immaginando la finestra che non c'era, e intanto sentiva tutti i rumori dell'imbrunire. Sgasate di autobus, sbraiti di alienati, sgommate e inchiodate, sirene, allarmi, e urla di litiganti per un posteggio, proprio come se il suo ufficio, di finestre, ne avesse almeno tre, una per ogni lato. Sul quarto c'era la porta e da lì entrava solo la puzza del ristorante cinese e dei suoi pesci marci stesi a seccare come mutande mal lavate. Questo era l'incipit di Mastruzzi indaga di Pino Cacucci. Yeah. good. Saturday's good. I can spend a week in 1955. I can hang out. You can show me around. Marty, that is completely out of the question. You must not leave this house. You must not see anybody or talk to anybody. Anything you do could have serious repercussions on future events. Do you understand? Yeah, sure. Okay. Marty, have you interacted with anybody else today besides me? I might have sort of bumped into my parents. Great Scott! Sono due parti da 30 minuti ciascuno, questa è Eclettica, ogni giorno fra i 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM. Due parti che diventano anche due parti di podcasting a vostra disposizione per ascoltarle in qualunque altro orario che non sia quello previsto dal palinsesto di Rock FM. Vi siete appena ascoltati gli I Like Trains, fra l'altro proprio questa settimana di passaggio in Italia, la seconda volta che vengono in Italia dopo l'esordio quest'estate a Firenze in data unica. 25 Sins è il titolo del brano ascoltato ed estratto dall'album che ha seguito Progress Reform, l'album che ci eravamo tanto ascoltati, quello del 2006 per First Panda. Questo nuovo è un album che esce invece per Beggar's Banquet e si intitola Elegies to Lessons Learned, brano che era stato preceduto da una formazione neozelandese lo-fi toccante del pezzo che ci siamo ascoltati all'interno di Eclettica da parte degli Shocking Pink, che aveva per titolo I Want You Back, Shocking Pinks, con la S finale, non devo sbagliare. Come mi viene difficile invece non sbagliare nel dire il nome della formazione norvegese che chiude questa prima parte per quanto riguarda quest'oggi, Ungdomsskulen. Non so se poi la pronuncia sia corretta o meno, se c'è qualcuno che conosce il norvegese in onda per favore mi faccia sapere qualcosa di più preciso. Ordinary Son è il titolo del pezzo che ci ascoltiamo, un pezzo che è estratto dal loro album che esce per la Ever, album che ha per titolo Cry Baby.